24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. Ci sono ora tutte le condizioni per versare alla Grecia i 43,7 miliardi di euro di aiuti che aspetta, ma la decisione formale sul versamento sarà presa il 13 dicembre, dopo che i parlamenti nazionali, tra cui quello tedesco, si saranno pronunciati e dopo che ci sarà stata una valutazione di una possibile operazione di buyback che la Grecia deve avviare. È quanto si legge nel comunicato finale dell'Eurogruppo. Riunione fiume, come sempre sul filo l'Europa che trova l'intesa, questa volta perché messa alle strette dall'FMI. Alla fine il commissario Olli Rehn ad annunciare che l'accordo è fatto. Obiettivo è il rapporto debito-PIL al 124% entro il 2020. Atene beneficia della nuova linea del Fondo Monetario, dove si sono accorti che tutta l'austerità imposta fino a oggi non ha portato molto lontano. Una visione però solo parzialmente modificata, perché poi è stato lo stesso fondo a chiedere e ottenere che la Grecia scenda sotto la soglia del 110% già nel 2022. L'insieme di misure che consentirà ad Atene di portare a casa il risultato prevede uno sforzo da parte di tutti, misurato con il bilancino. L'Eurozona taglierà di 100 punti base gli interessi sui prestiti bilaterali, altra riduzione quella di 10 punti sul costo delle garanzie che la Grecia paga al fondo salva stati e moratoria di 10 anni sui tassi dei prestiti concessi dallo stesso fondo. Infine gli Stati e la BCE rinunceranno ai loro profitti sui bond greci e li verseranno direttamente ad Atene in un conto bloccato. Al vaglio anche la possibilità che il governo Samaras riacquisti una parte del proprio debito. Se i parlamenti nazionali approveranno, il 13 dicembre la Grecia avrà i 43 miliardi che aspetta ormai da mesi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione ha deciso di ribadire la sua proposta di bilancio per il 2013. Ne ha infatti presentata una, nuova solo sulla carta, da 151 miliardi per gli impegni di spesa e con 137,8 miliardi di stanziamenti per i pagamenti. Resta il nodo della manovra aggiuntiva da circa 9 miliardi necessaria per poter pagare le fatture attualmente senza copertura già presentata dagli Stati. Secondo fonti europee, la proposta della Commissione per quanto riguarda la manovra per il 2012 non può essere ridotta, a meno che gli Stati non rinuncino ad essere rimborsati o se si trova una parte di fattura il cui pagamento possa essere dilazionato. Quest'ultima soluzione però avrebbe inevitabilmente effetti sul bilancio del 2013. Tra le fatture in sospeso, quelle per i fondi sociali, ricerca e sviluppo, coesione e il progetto Erasmus, per un totale che la Commissione continua a stimare in 9 miliardi sulla base di quanto chiesto dagli Stati stessi. Accordo raggiunto tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea sulle nuove regole europee che danno un altro giro di vite alle agenzie di rating. Dopo lunghi negoziati, l'intesa è finalmente stata raggiunta dalle istituzioni UE su una serie di provvedimenti che mirano a ridurre la dipendenza eccessiva dal rating, a regolamentare la tempistica dei giudizi sul debito pubblico, a ridurre i conflitti di interesse e a stabilire un regime di responsabilità civile. Quote latte torna a farsi sentire la protesta da tutta Europa sotto il palazzo della Commissione a Bruxelles, in concomitanza con il summit tra i 27 ministri dell'agricoltura. 2.500 i produttori provenienti da 14 paesi che manifestano. Roberto Cavaliere, presidente Copagri Lombardia e membro dell'European Milk Board. L'esasperazione dei produttori che da 3 anni chiedono risposte alla Commissione europea sono state totalmente disattese. Oggi nessun produttore europeo riesce più a vivere a questi costi. Abbiamo i costi di produzione che superano del 30% quello che è il ricavo che ogni produttore prende di un litro di latte. Produrre latte in Europa, ci sono situazioni totalmente diverse da nord e sud Europa e le regole introdotte nel 1983 oggi non sono più adeguate. Noi chiediamo che venga superato il vecchio sistema delle quote latte con un sistema più moderno, più flessibile, in modo da regolare domanda e offerta e preservare l'interesse dei produttori e dei consumatori. Il caso Ilva, l'Unione Europea farà di tutto per evitare la chiusura degli impianti nell'acciaio e per impedire la delocalizzazione delle industrie, è quanto ha affermato il vicepresidente della Commissione Europea e responsabile per l'industria, Antonio Tajani. La chiusura dell'Ilva di Taranto genererà sul sistema produttivo italiano un effetto domino molto costoso. A calcolarlo è stato oggi Il Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano, lo stop dell'Ilva avrà ripercussioni nazionali ed europee, se è vero che il fermo produrrebbe un ammanco di 5 milioni e mezzo di tonnellate d'acciaio. Il blocco dell'azienda pugliese produrrà un calo del PIL regionale del 7-8% e del PIL nazionale dell'1%, sempre stando agli studi pubblicati dal Sole 24 Ore. La chiusura dell'Ilva produrrà un costo complessivo di circa 9 miliardi di euro, tra costi di sostituzione della bilancia commerciale, extra costi di approvvigionamento e oneri per la collettività. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il livello del Mar Mediterraneo rischia di alzarsi di 15-20 centimetri entro il 2050 e di 25-30 centimetri entro la fine del secolo, secondo gli ultimi scenari tracciati, tra gli altri, da esperti italiani. Bisogna essere pronti ora ad affrontare il peggio, ha avvertito il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. A Radio 24, Conny Hedegaard, commissario dell'Unione Europea al cambiamento climatico, spiega gli obiettivi della Conferenza Mondiale sul Clima in corso a Doha, in Qatar. I would say I hope that when we all leave Doha 12 days from now. Spero che quando lasceremo Doha 12 giorni da oggi avremo raggiunto un accordo chiaro sulle regole che ci porteranno entro e non oltre il 2015 ad un accordo globale sul clima. Spero che lasciando Doha ci sia riconoscimento di come l'Europa stia rinnovando l'impegno di Kyoto e di come sia impegnata in linea con le promesse fatte 3 anni fa a Copenaghen. E spero che quando lasceremo il vertice di Doha non saremo più impegnati a negoziare sul doppio binario che oggi distingue i paesi sviluppati da quelli in via di sviluppo sulle politiche ambientali. Not any longer negotiating in the two tracks, you know, this annex 1 and non-annex 1, the developed countries and the. Dobbiamo uscire da questo vertice con una strategia unica e comune, consapevoli che sì, certo, le economie più sviluppate devono fare di più dei paesi in rapida crescita, ma che anche le grandi economie in crescita che caratterizzano il nostro tempo possono e devono fare di più, perché altrimenti non saremo in nessun modo capaci di stare sotto il limite dei 2 gradi di aumento della temperatura globale. Serve una risposta rapida al problema dei fondi per garantire il funzionamento dell'Erasmus sino a fine anno e poi per il 2013 e l'appello lanciato dalla commissaria europea all'educazione Andrulla Vassiliu al termine del Consiglio Educazione. Faccio un appello perché si trovi al più presto una soluzione sia per il 2012 che per il 2013 in modo da mettere i nostri giovani in una situazione in cui non siano privati di questo importante programma, ha affermato la commissaria. Sentiamo adesso come sono andati gli listini del vecchio continente. Il nuovo accordo sul debito della Grecia non è bastato ai mercati per ritrovare la fiducia. A preoccupare ora quello americano di debito e la paura di un impasse sulle trattative con tagli lineari alla spesa pubblica negli Stati Uniti genera incertezza. I listini europei hanno così chiuso poco mossi. A Milano il FTSE MIB ha ceduto lo 0,26% e il FTSE All Share lo 0,2%. La giornata è stata caratterizzata dalle vendite su Telecom Italia, meno 3,2%. Il mercato si è interrogato sulla possibilità che il prossimo CDA della compagnia telefonica possa risolversi con un nulla di fatto sia sull'eventuale ingresso di nuovi soci sia sulla cessione della TV La 7. Per contro gli acquisti si sono concentrati su ST che ha guadagnato il 2,1% dopo l'annuncio che fornirà componenti per la nuova console Wii della Nintendo. Bene anche Finmeccanica più 1,8% che sta sondando il mercato per il lancio di un bond. Sarebbe il primo dal 2009. Guido Maurino da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il summit UE-Russia si terrà a Bruxelles il prossimo 21 dicembre. Lo ha annunciato l'ambasciatore per gli affari speciali, Anvar Azimov, durante un incontro con la stampa a Mosca. Al confronto con i vertici dell'Unione Europea dovrebbe partecipare anche il presidente Vladimir Putin. Il suo addetto stampa, Dmitry Peskov, ha infatti smentito 2 settimane fa le voci che volevano il premier Dmitry Medvedev a Bruxelles a dicembre al posto del capo del Cremlino, fermato a Mosca da problemi di salute. Cambia aggiornandosi e migliorando la rete paneuropea dei servizi per l'impiego, il portale internet di ricerca di lavoro Eures. Lo annuncia la Commissione europea con una serie di rivisitazioni che consentiranno di aumentare la mobilità dei lavoratori tra Stati membri e di porre le condizioni per un vero e proprio mercato del lavoro europeo. Con il nuovo portale Eures, infatti, secondo la Commissione, chi cerca lavoro potrà contattare più facilmente i datori di lavoro che richiedono persone con competenze specifiche e potranno concentrarsi sui settori e sulle occupazioni